Letture di Radio 24. Licenziare i dipendenti dell'azienda a causa di post critici su Facebook? L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in Italia non era stato pensato per l'era di Internet. Così, dagli Stati Uniti, più precisamente dallo Stato del Connecticut, prende vita il primo accordo che regolamenta ciò che un dipendente può e non può scrivere sul noto social network. Sarà legge anche da noi? È forse destinato a passare alla storia l'accordo sui social network raggiunto dal Sindacato dei Medici del Connecticut e dalla Società di Servizi Sanitari American Medical Response. Tutto era nato dal caso di Dawn Marie Sosa, una dipendente che aveva scritto un post sul proprio profilo Facebook pesantemente critico nei confronti dei suoi superiori e per questo era stata licenziata. Risolta con un accordo economico la causa civile tra la Sosa e la società, il sindacato ha voluto vederci chiaro e ha, come si suol dire, aperto un tavolo con l'azienda per stabilire le regole su quello che si può e non si può scrivere nei social network sulla propria azienda. Così si è arrivati a una specie di statuto dei diritti e dei doveri digitali dei dipendenti. L'accordo del Connecticut fa pensare che sia ormai indispensabile la regolamentazione di una questione che è già esplosa anche da noi, con il caso dei due impiegati della Cassa Nazionale di Previdenza dei Commercialisti licenziati per alcuni post sulle proprie bacheche di Facebook. Fino a dove prevale la libertà d'espressione e dove invece comincia il diritto dell'azienda a sanzionare collaboratori che ne danneggiano l'immagine in rete? E queste eventuali sanzioni possono arrivare al licenziamento in tronco? Il terreno è ancora oscuro e in questa assenza di norme le aziende italiane possono talvolta entrare nelle bacheche dei loro dipendenti, legalmente se i profili sono pubblici, per cercare qualche post compromettente e aggirare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che non era stato pensato per l'era di Internet. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Quando Facebook fa licenziare» di Alessandro Giglioli, dall'Espresso del 24 febbraio. Letture di Radio 24. Le donne dell'Africa sono state candidate al Premio Nobel per la pace. Controllano il 70% della produzione agricola, ma non sono quasi mai padrone della terra perché donne. Allo stesso tempo, al Nobel per la pace, un deputato norvegese ha candidato anche Julian Assange, che ruba la scena alle donne africane. L'Africa sentenzia lo slogan, vedremo di chi, cammina sui loro piedi, quelli delle donne del continente nero. E se si guardano alcuni numeri, ci sarebbe ben poco da contestare. Prendiamo le contadine del distretto di Makete, in Tanzania. Il 67% dei prodotti trasportati dalla campagna ai mercati dei villaggi camminano su gambe femminili. Le contadine fanno 3 viaggi al giorno, avanti e indietro. Non passeggiate. Il percorso medio è di 4 ore. Gli uomini si fermano a 1. Sulle spalle delle donne di Makete, passo dopo passo, si spostano 50 kg di roba al giorno. I loro compagni, mariti, fratelli, non superano i 6. Non sia mai. E naturalmente sono loro, i maschi, a conquistare i lavori meno faticosi, lasciando il sudore alle donne, come racconta il nuovo rapporto IFAD, l'Agenzia dell'ONU per lo Sviluppo Agricolo. Makete, va da sé, è una parte per il tutto. È per questo che il CIPSI, rete di ONG per la solidarietà internazionale, con lo slogan dei piedi, le ha candidate al Nobel per la pace 2011, con la campagna NOPAW, Nobel Peace Prize for African Women. Tutte le africane, quelle che controllano il 70% della produzione agricola, ma non sono quasi mai padrone della terra, perché donne, quelle che fanno da spina dorsale all'economia, da Algeria a Città del Capo, lavorando la terra, organizzandosi con l'aiuto del microcredito o anche semplicemente vagando, seminando, raccogliendo. E la terra, spiega l'IFAD, con i prezzi dei prodotti che stanno tornando alle stelle sul mercato globale, può essere la chiave di svolta, offrendo, con le politiche giuste, prospettive di crescita nelle varie realtà nazionali. Fino all'inevitabile, è l'auspicio, riconoscimento del ruolo delle donne. Un bel premio collettivo dall'Accademia di Oslo aiuterebbe, soprattutto a metterle al centro dell'attenzione. Avrebbero forse gli stessi riflettori i birmani di Aung San Suu Kyi? o le iraniane sotto il Shador senza il Nobel a Shirin Ebadi? Certo, alla campagna manca un nome, ma il vero problema è un altro di nome, quello di Julian Assange, un deputato norvegese l'ha candidato al riconoscimento. Lui, il controverso guru di Wikileaks, eroe di pace come il dissidente cinese Liu Xiaobo, vincerà? Conta poco adesso. Purtroppo però, fin d'ora, Assange rischia di attirare su di sé con le polemiche l'attenzione anche in tal senso, e di certo ne ha assai meno bisogno. Si potrebbe dire pure meriti specifici se non si rischiasse l'accusa di essere politicamente scorretti delle contadine africane. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Assange e le contadine di Edoardo Vigna, da 7 di giovedì 17 febbraio. A chi servono davvero i raduni anti-Berlusconi? La legittima domanda se la pone Enrico Mentana nel suo editoriale su Vanity Fair, perché se dietro alla folla del Palasharp si intravede la forza dell'opposizione civile, si scorge anche la debolezza di chi è convinto di appartenere al partito dei migliori. Quando in politica si ha l'impressione del déjà vu, allora c'è un problema. E qui non è difficile individuarlo. Una parte consistente dell'opinione pubblica sembra immune dal contagio di questa indignazione, e ciò impedisce ogni contaminazione di temi e di toni, oltre che di partecipanti. Allora succede che se la cantano e se la suonano da soli. Toni, aggettivi e slogan, ma soprattutto speranze, sono gli stessi di ogni passata protesta anti-Caimano, dalle grandi manifestazioni dei girotondi alle prime apparizioni del popolo viola e, poche settimane fa, le occupazioni e i cortei degli studenti universitari. Non voglio sottovalutare fenomeni dall'indubbio valore di testimonianza civile, ma la gran parte dei partecipanti è la stessa. Alcuni invecchiati, altri ringiovaniti dal ritorno alla lotta, anzi, molti sono in campo da ben prima. Lo ricorda amaramente in apertura del suo articolo di domenica 6 sulla Repubblica, Curzio Maltese. È un giorno di febbraio dolce e terso che non sembra neppure Milano, come 19 anni fa, quando cominciò Mani Pulite. Molte facce, famose e no, sono le stesse di allora. I volti della Milano civile che scendeva in piazza per difendere i magistrati del pool. Ma l'Italia intorno, quanto è cambiata? Già, 19 anni fa, ma anche 9. Ce lo ricorda Oreste Pivetta sull'Unità. Il titolo induce alla speranza. Stesso posto 9 anni dopo. La gente ha capito. Il viaggio di Silvio è finito. L'articolo però ricorda che lo stesso palazzetto in cui 10.000 persone sono andate in visibilio per Roberto Saviano e Umberto Eco nel febbraio 2002 aveva attirato 40.000 cittadini. La protesta fu fortissima, ma Berlusconi era tornato al governo da meno di un anno e ci sarebbe rimasto per altri 4. I raduni e le manifestazioni servono per riprendere il filo, per fare massa, per restituire fiducia e oggi hanno la funzione di ricominciare a fare qualcosa dopo un lungo periodo in cui il gioco politico si è incentrato su Berlusconi da un lato e i suoi ex alleati Casini e Fini dall'altro. Ora che la spallata alla Camera è fallita e il terzo polo ha perso almeno in parte le redini della diligenza, l'opposizione storica ha ripreso posto a cassetta e può riprendere vigore il mito di un'altra Italia che non sopporta, che si indigna e chiede al Premier di farsi da parte, con qualche rischio, perché quando Eco manda in visibilio il Palasharp dicendo che non tutti gli italiani hanno la sveglia al collo che ondeggia al ritmo del bunga bunga, rassicura gli anti-berlusconiani, ma scava ancor di più il fossato con gli altri, quelli che in misura del 30%, stando a tutti i sondaggi, voterebbero ancora oggi per il partito di Berlusconi, bunga bunga o non bunga bunga, e che ovviamente saranno ancora più motivati a farlo sentendosi dire «Noi siamo meglio di voi». Ecco, a differenza degli scettici e dei cinici, io penso che l'opinione pubblica che si indigna abbia il pieno diritto e dovere di manifestare, sperando motivatamente di contribuire così a cambiare le cose, sapendo però che dietro l'angolo c'è anche il rischio della deriva elitaria, del ditino alzato e, in definitiva, del disprezzo per chi la pensa diversamente. Berlusconi, quando succederà, sarà battuto da un partito migliore, non da un partito dei migliori o degli indignati. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Ma a chi servono davvero i raduni anti-Berlusconi?» di Enrico Mentana, da Vanity Fair del 16 febbraio.